4 mattino. Guido un po' Pisapia, Bersani, no, D'Alema, no, Renzi. No. Perché non lo segue? Mi scuccio. Grande Henry De Luca, intervistato da Serena Bortone, una serie di pillole e di perle di saggezza. Però noi ne dobbiamo parlare di tante cose oggi. Allora inizio con i titoli dei giornali. Repubblica apre sulla fiducia e attenzione, secondo Repubblica sarà sullo Ius Soli e sulla legge elettorale. Ci sarebbe un via libera sia da parte di Forza Italia che della Lega interessati alla legge elettorale. Il punto di Follia, sinistra ponti rotti ma recinto chiuso. La Gazzetta dello Sport, perfido il titolo, testina di serie, pensate, testina di serie, sarebbe l'Italia che diventa non testa ma testina di serie perché non si qualifica bene. D'altra parte anche il Corriere dello Sport è sarcastico, missione quasi compiuta. Il Messaggero apre sulla reprimenda di Mattarella davanti ai neomagistrati. È un discorso sempre molto importante, un discorso di indirizzo. La toga non è un abito di scena e ci mancherebbe. Il fondo di Carlo Nordio, ex magistrato, interpretare la legge senza recite a soggetto. Avvenire. Il governo fa muro sulle esuberi dell'Ilva, è il primo di tanti titoli su questo. E Calenda avverte la proprietà, piano inaccettabile. Il Sole 24 Ore. Banche, rischio, tassi ben gestito, Padoan, dubbi sulle novità. Il ministro critico sulle modalità adottate dalla vigilanza della BCE. Sono giorni che parliamo di questo problema molto importante delle nuove regole sulle banche. Però, secondo titolo importante, salari e nuovi contratti all'Ilva, stop di Calenda a Mittal, è il grande gruppo che ha comprato l'acciaieria di Taranto. L'analisi di Bricco, la leggeremo fra poco, giù il muro, su il confronto, tutte le problematicità di questa complessa vicenda. E poi andiamo sul Foglio, bordate contro la giustizia dei talk show, fiducia sulla legge elettorale, Mattarella cambia passo contro i campioni dello sfascio, evviva, e il fondo di Cerasa. E poi il Fatto Quotidiano, legge elettorale, vietato opporsi, Renzi minaccia canguri e fiducia. Questo ovviamente è la posizione molto critica su questa legge elettorale del Fatto. E la spuma diventa islamica, e questa è un'interessante apertura della Verità. Pensate su una pubblicità della spuma in cui c'era una donnina, e le bibite Paoletti, e si sono messi il velo per essere più gradite nel mercato islamico. Libero, se l'Italia chiede una cosa il governo fa il contrario, sondaggio dell'Università di Siena, e foto di apertura, strapagato Fazio provoca la caduta, addirittura la caduta degli ascolti Rai, poi vedremo nel dettaglio che non è proprio una caduta. Il Tempo, Battisti come Lollo e l'Italia dorme, la storia del latitante e dei latitanti che sfuggono alla giustizia italiana sugli anni di piombo, gli scheletri di un'epoca che sono lì, l'ISIS in casa, questo è un altro tema, Il Giorno, terrorista a Ferrara, il fratello del killer di Marsiglia arrestato in Italia, fu respinto nel nostro paese nel 2014, ha combattuto 2 anni in Siria per il califfato. Il Giornale. Anche i festini a luci rosse nel crack del Monte dei Paschi, poi l'apertura su Mattarella e poi Tajani che blinda le nostre banche sul provvedimento della BCE. Ma le avrà blindate? Il Corriere della Sera, stretta sulle banche, arriva lo stop di Tajani, e poi c'è il pezzo sull'Ilva, e poi c'è un editoriale di Dario Di Vico sul ruolo dell'acciaio nella spinta del PIL italiano. La toga non è un abito di scena, e poi al centro della pagina, Hollywood degli abusi, la rivolta delle donne. Infine La Stampa, poi comincio con la lettura. Ilva, il governo accusa l'azienda, i soldi li ha, non tagli i salari. Quei leader in cerca di identità e il fondo di Federico Geremica su il caos che c'è dentro la sinistra. Allora ricordate, per guidare, interrogare questa umile rassegna stampa, 349-238-6666, ma comincio subito con leggere qualcosa di importante, che è il problema della Germania. Schäuble, il ministro delle finanze tedesco uscente, fa un discorso e Federico Fubini lo analizza su Corriere della Sera, pagina 3. La differenza è che stavolta il non-paper, cioè il documento informale di Schäuble, ha il pieno appoggio della cancelliera, cioè della Merkel, anche per il prossimo mandato da leader. E il problema grosso di questo discorso, come spiegato più volte dal Corriere, ricorda Fubini, è che Berlino vuole che si applichino sui titoli di Stato meccanismi simili a quelli che riguardano già le banche in dissesto. Quando c'è un intervento di salvataggio, gli investitori in titoli di Stato devono subire perdite in modo da ridurre l'ammontare del prestito di emergenza del Fondo di Salvataggio Europeo. Lo traduco in una parola? Questo discorso così importante vuol dire rubinetti chiusi per i paesi in sofferenza tipo noi. E allora la protesta di Patuelli, che rappresenta l'ABI, le banche italiane, un'intervista di Alessandra Puato sul Corriere a pagina 2, e poi il commento di Daniele Manca: perché ci vogliono sotto tutela? Ecco, questo forse è un po' la sintesi di tutto il dibattito che c'è su questo provvedimento delle banche. Non ripetiamo l'errore commesso con le norme sul bail-in, i salvataggi bancari. La politica e tutti i partiti dovrebbero per una volta capire, pensate, il Corriere della Sera solitamente compassato, che ci sono battaglie da condurre per il paese e altre per la campagna elettorale. Quella attorno alle norme sul recupero dei crediti bancari, così come quelle che si stanno prefigurando in un ruolo di organismo tecnico preponderante, articolo nella pagina a fianco, riguardano la sostenibilità delle politiche economiche del nostro paese. Chiunque sia a guidarlo dopo le prossime elezioni, non inganni il fatto che si tratta di due proposte, scrive Manca. Vanno nella stessa direzione, affermare il principio che i tempi delle norme in economia non contano. Così non è. Non prevedere in tempi di transizione congrui, sia sulla valutazione dei crediti incagliati, sia sul risanamento del paese, impedisce la realizzazione degli obiettivi. Allora, è un grande grido d'allarme quello che arriva, è un grido di allarme contro queste norme che riguardano ovviamente e soprattutto le nuove norme della banca centrale e il modo di trattare i crediti delle banche, il modo di trattare i debiti del paese. E la Germania, che esce dalle elezioni con una vittoria del Partito Liberale, accentua la sua politica di stretta, e l'Italia, secondo il Corriere della Sera, rischierebbe di finire in questa morsa. È solo l'antipasto della rassegna stampa di oggi, perché poi ovviamente abbiamo l'Ilva, abbiamo la politica, abbiamo la rottura definitiva fra Pisapia e Bersani, ma ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità e per il meteo. Ma voi veramente non state bene, fatevi vedere, io ve lo dico fraternamente. Ma vi volete rilassare? Mannaggia. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Fidelity International, soluzioni di investimento per costruire un futuro migliore. Mattino. E allora vi dicevo questa esternazione, questo indirizzo di Mattarella nel suo discorso ai nuovi magistrati, l'interpretazione che ne dà Carlo Nordio, anche lui un ex magistrato, sul Messaggero. Allora, come la tonaca del prete, la toga può anche occultare i peccati e i difetti della fragilità umana, ma serve proprio ad avvertire chi ci sta dentro e chi ci sta davanti, che essa rappresenta un totale distacco fra la persona che la indossa e la funzione che esercita. Chi si inginocchia nel confessionale non si rivolge all'uomo ma a Dio, e quando parla il giudice non parla il dottor Tizio o il consigliere Caio, ma parla la legge, la bouche de la loi, come predicava Montesquieu. Forse oggi in Italia è difficile crederlo, ma non è colpa di Montesquieu, è colpa di qualche toga. E sì, perché questo richiamo arriva dopo tante polemiche sulle inchieste, su come vengono condotte. Quindi la toga non è un abito di scena. Sante parole di Mattarella. Vedremo poi cosa ne pensa anche Oscar Giannino. Allora, vi dicevo della grande nodo dell'Ilva. Allora comincerei, perché è materia complessa, con il racconto che... prima dell'Ilva, con la legge elettorale. E comincerei, dicevo, con la stampa, perché la stampa ci dà due retroscena abbastanza interessanti. Se riesco a recuperare la stampa, perché mi perdo in mezzo ai giornali, mi perdo nel mare della carta la mattina a volte. Eccola qua. Allora, la stampa a pagina 10 e 11 dà un'intervista di Orlando a pagina, in cui dice praticamente: una grande offerta a MDP, niente fiducia. Accordo, pagina 5, scusate, Carlo Bertini, accordo con i bersaniani sulla manovra del Rosatellum e poi facciamo la coalizione. Il ministro Andrea Orlando: Pisapia non è la longa manus del PD, cambiamo la legge elettorale e poi troviamo un candidato premier comune. È molto importante questo messaggio che arriva oggi, perché tutto il resto va nella direzione opposta, cioè di una fiducia imposta che ha fatto imbufalire i grillini che minacciano le barricate. Francesca Schianchi, sempre sulla stampa, pagina 4, fa un retroscena, scrive un retroscena in cui ci spiega i paletti di Pisapia all'alleanza con il PD di Renzi. Non va da Renzi a Palazzo Chigi, sarebbe questa la condizione di Pisapia per allearsi con il PD. La replica: l'ex sindaco è un indeciso, venga con noi ma alle nostre condizioni. E vi leggo due righe di questo pezzo della Schianchi. Condizioni a cui dal PD evitano per ora di dare la scontata risposta ufficiale. La proposta di Pisapia è irricevibile, cioè il no alla premiership di Renzi. È normale che Pisapia cerchi di tenere il punto, perché ora ha una polemica ancora aperta con i bersaniani. Così liquidano le richieste degli uomini dell'ex sindaco, impegnati a definirsi né stampella del PD né cartello elettorale di sinistra. La rottura con gli scissionisti Dem, guidati a Speranza, riuniti ieri a Roma, è ancora fresca. C'è chi mi chiede un passo avanti, chi indietro, chi di lato. Sembra di essere, ha ironizzato D'Alema, sembra di essere una scuola di tango, pensate. C'è chi mi chiede un passo in avanti, chi mi chiede un passo indietro, chi mi chiede un passo di lato. Sembra di essere la scuola di tango qui. Diciamo francamente, ecco. Legge elettorale, vietato opporsi. Renzi minaccia canguri e fiducia, perché questa invece è la faccia, diciamo così, cattiva del governo. E lo sto leggendo dal titolo di apertura che vi ho preannunciato del Fatto. Wanda Marra, a pagina 2, racconta questa minaccia ai canguri. Non si tratta di lavoro su specie protette, ma il canguro parlamentare, cioè saltare degli emendamenti accorpandoli, evitando il voto e soprattutto i franchi tiratori. Poi c'è un pezzo interessante di Tommaso Rodano sulla lista unica, è quello che ha provocato l'ironia di D'Alema, perché anche Montanari e la Falcone, l'anima più di sinistra di quello schieramento, dicono: D'Alema, fai anche tu un passo di lato. E questa è la situazione a sinistra. Vi ho raccontato quindi della scena, del retroscena. Andiamo al Corriere della Sera per vedere l'ultima rifinitura di quello che dovete sapere per capire cosa bolle in pentola. E il problema, dicevo, è il perché si arriva a questo. Allora, Massimo Franco, nella sua nota, solo per capire, è una riforma cercata a ogni costo per correggere il tripolarismo. Il via libera di fatto di Lega e Forza Italia al governo, nel caso ponesse la fiducia sulla riforma elettorale, prefigura un accordo e una forzatura. L'accordo è fra PD e opposizioni di centrodestra per votare quanto possibile il nuovo sistema, a costo di sentirsi accusare di golpe da grillini ed articolo 1 MDP. La forzatura consisterebbe nella volontà di piegare il Parlamento ad un sì che evidentemente non si considera scontato. Sì, perché sulla legge elettorale si è proceduto con la fiducia, vi racconto io, solo tre volte: con la legge truffa, con Benito Mussolini e con il famoso Italicum di Renzi. Gli uomini di Pisapia, Monica Guerzoni, si contano, pronti a formare un loro gruppo. E c'è anche un'intervista, per chi vuole c'è le foto di questi uomini che hanno seguito Pisapia e ora rischiano di uscire dal gruppo fatto insieme come MDP. C'è da ammattire, ragazzi, c'è da ammattire a seguirli tutti. Allora, io vi devo leggere invece la questione di Battisti, del latitante, che ora è in vacanza. Io lo trovo straordinario che Battisti è in vacanza e ce lo racconta Il Tempo. Battisti come Lollo e l'Italia dorme. Vergogna, grida il fratello dei martiri di Primavalle, Giampaolo Mattei. È una storia uguale a quella dei killer dei miei cari. Intervista a pagina 3 del Tempo, Valeria Di Corrado. La rabbia del fratello delle vittime morte nel rogo di Primavalle, stiamo parlando del 73. Sono tutti latitanti e impuniti in Brasile. Questo paese non fa mai niente per riportarli a casa. Però a pagina 2 del Tempo, Dimitri Buffa, c'è una carrellata di pareri e sono molti quelli che non firmerebbero più, grazie a Dio, l'appello per Battisti. Paolo Cento, come sapete, Bauro Senesi, all'epoca la mia firma mi fu quasi carpita, Roberto Saviano, mi accorsi dell'errore e feci togliere la firma. Giovanni Russo Spena, fu un atto di garantismo, oggi non lo ripeterei. Insomma, è veramente un grande ripensamento su questa vicenda. Allora, vi dicevo, andiamo al Money e raccontiamo che cosa sta accadendo con l'Ilva. È ovviamente un tema molto delicato e quindi il Corriere pagina 5 per capire la situazione. Lo stop del ministro è quello che ha innescato tutto. Pensate, prima ancora dell'incontro con i sindacati, fra l'altro domina i giornali questa foto di un operaio con il casco, che muove il casco furibondo, calvo, sembra un mastrolindo, e con una maglietta in cui c'è scritto "Pacta sunt servanda", i patti devono essere rispettati. Allora, Francesco Di Frischia, il Corriere, pagina 5. Nel giorno dello sciopero di 24 ore contro i 4.200 esuberi all'Ilva, Carlo Calenda boccia le condizioni retributive e contrattuali dei lavoratori della futura società. Fa saltare la trattativa fra la nuova proprietà e i sindacati. La proposta dell'azienda su salario e inquadramento dei lavoratori è irricevibile. Il tavolo è aggiornato, twitta il ministro dello sviluppo economico. La trattativa però di fatto non è mai iniziata e non si riaprirà finché non ci sarà chiarezza da parte dell'investitore, tuona in serata il ministro. Manca un pezzo degli impegni che l'acquirente aveva preso nei confronti del governo sui livelli salariali e sugli scatti di anzianità, su cui non si prevedeva di ripartire da zero, ma si prevedeva di mantenere quelli attuali. Cioè, la società ha detto: noi azzeriamo tutti gli scatti aziendali. La cordata che ha acquisito l'Ilva, guidata dal colosso della siderurgia mondiale, Mirdal, che ha formato il consorzio AM Invesco con il gruppo Marcegaglia Intesa San Paolo, vorrebbe imporre fra l'altro i 10.000 lavoratori, con 4.200 esuberi dal 2018, di cui oltre 3.000 solo a Taranto, l'azzeramento dell'anzianità e l'applicazione del Jobs Act. Niente premio di produttività e di risultato, secondo i sindacati, però il taglio nelle buste paga sarebbe di circa 7.000 euro l'anno. Perché la questione è complessa? Perché loro dicono: ma scusate, questa legge l'avete fatta voi e noi la applichiamo, quindi fa bene Calenda a difendere i lavoratori, ma deve andare in qualche modo a confliggere con una norma. Ed ecco perché questo muro contro muro, lo racconta Paolo Bricco sul Sole 24 Ore, il commento parte dalla prima e gira a pagina 8 e spiega perché bisogna evitare il muro contro muro. La prima mina è appunto la tempistica del piano ambientale, ormai in gazzetta ufficiale, e va realizzato, pensate, entro il 2023. Sei anni in cui la produzione non potrà salire sopra le 6 milioni di tonnellate, il 40% in meno rispetto alle 10 milioni di tonnellate dei massimi storici raggiunti dalla vecchia gestione dell'Ilva, quella deriva. Impianti di questo tipo si ripagano soltanto oltre certi livelli produttivi. livelli, sotto i quali il costo del lavoro diventa un nervo scoperto in grado di paralizzare un corpaccione che sembra gigantesco, ma che per paradosso non è abbastanza grande. Avete capito? Questa è la spiegazione del perché si è arrivati a questo muro contro muro. Ce la offre Paolo Bricco su Sole 24 Ore, è un lungo paginone, un lungo articolone di analisi. Se volete capire, dovete leggere anche quello. Arduino sulla Verità punta tutto su questo tema, cioè sul tema del rispetto del Jobs Act. Pagina 13. Ovviamente c'è anche una nota polemica. Il governo rinnega il Jobs Act. In pratica Calenda, per difendere gli operai, scrive Arduino, sconfessa il Jobs Act, che viene sbandierato a ogni conferenza stampa da Renzi come la bacchetta magica in grado di creare migliaia di posti di lavoro, rinnegando la politica occupazionale del suo stesso governo. Infatti la proposta di piano industriale dell'amministratore delegato della società, l'indiano Mittal, prevede 4.000 esuberi e il cambio di contratto per chi mantiene il posto. Per loro, circa 10.000 persone, non ci sarebbe continuità contrattuale. Quindi è un bel dilemma in cui ci si infila, mentre noi vi diciamo andate e sentite cosa accade sulle strade. Cimici, calpestate senza dignità! Mattino. E allora rieccoci, vi dicevamo di notizie che ci hanno turbato. Bene, partiamo da Peppina. Diciamo che è ancora una volta uno scandalo, abbiamo seguito questa vicenda, l'abbattimento di questa casetta. Ebbene, La Verità, pagina 10, vergogna italiana, non solo nonna Peppina, sono 1.000 i terremotati costretti a demolire. Era un dato che mancava. Paolo Giovannelli, un'intera paginata, non posso reggerlo tutto, però vi dà l'idea. Le regioni colpite dal sisma non hanno chiesto deroghe e i comuni ordinano di abbattere tutte le casette di legno comprate dai cittadini senza tetto. L'appello: sanatoria per chi ha costruito entro 6 mesi dalla scossa. E a me sembra di buon senso, però chi vuole si legga questo pezzo. Se mi mandano fuori dalla casetta, dove vado? Speriamo che qualcuno mi aiuti. Sempre sulla cronaca, speriamo che qualcuno l'aiuti. Mi ha incuriosito Azzurra Noemi Barbuto sul Libero, il club segreto, pensate, delle anoressiche suicide. Le ragazze si istigano a vicenda su WhatsApp. Si sono appena affacciate alla vita eppure sognano di morire le circa 80 adolescenti di un gruppo di WhatsApp clandestino nella quale mi sono infiltrata, dice così la giornalista che racconta in prima persona, dove le partecipanti si scambiano consigli su metodi e modi per dimagrire fino all'osso, superando e sopportandosi a vicenda in questo tragico iter che conduce alla morte. Pagina 14 di Libero, sicuramente questo pezzo di Libero merita di essere letto. La Catalogna è un nodo che seguiamo tutti i giorni, ma alcuni dicono è lontana, un cavolo, è molto vicina ed è molto vicina alla data dell'indipendenza. Qui potrebbe accadere qualcosa senza ritorno. Allora, c'è un bellissimo ritratto, ce ne parlò con Città di Gregorio qualche giorno fa, di Puigdemont, il giornalista zelante scelto a tavolino come capopopolo. La foto con la sua frangetta, sua moglie, ricordo sempre, è come se la secessione dell'Italia fosse guidata dal sindaco di Fiumicino. Infatti, da sindaco di Girona, da aspirante leader di una nazione, è il suo grido di appello: ma l'Europa ci deve aiutare. Per chi volesse una spigolatura che spiega tutti i rischi, sulla Verità Bruno Tinti, che come sapete è un magistrato esperto di diritto e di negoziazioni, racconta come dal punto di vista legale si può affrontare una secessione e con quali difficoltà. E allora ho letto quasi tutto, vorrei ricordarvi Jean Rochefort, questo attore francese che magari molti di voi non identificano, ma i suoi baffoni, il suo savoir-faire, la sua eleganza, i baffi del cinema. Paolo Mereghetti sul Corriere era famoso per una interpretazione in Italia, il marito della parrucchiera, era un uomo di un altro tempo, aveva 87 anni, morto ieri, mi piace ricordarlo con una parola e con un pensiero. È un tempo che se ne va. la mitragliata delle notizie folli di stamattina. E vai, il giornale, la tombola della camorra, pagina 18, la tombola della camorra. In palio c'è una pistola per il tuo primo omicidio. Simone Di Meo, non è uno scherzo, il folklore supera la realtà. Chi indovina il primo estratto sulla ruota di Napoli vince un'arma con matricola a brasa. Bah! Allora, sul giorno, DSK4. Sapete che i francesi amano siglare. Strauss-Kahn, ve lo ricordate quest'uomo? Era indiziato in pista per diventare il presidente della Francia. Fu travolto da uno scandalo sessuale, da tantissime accuse di stupro, e si sposa per la quarta volta. Pezzo godibile di Giovanni Serafini sul giorno, a pagina 15. 68 anni, ha impalmato la bella donna d'affari Miriam, e 68 anni, auguri, auguri! Il Tempo ci parla del gufo stressato. Si è finiti in Cassazione per un gufo stressato. È stato condannato, dopo 3 gradi di giudizio, un allevatore di gufi, perché il volatile stava bene, benissimo, hanno detto i medici, ma la gabbia era troppo piccola. Vai, animalisti, menate! Pagina 12. Allora, Scaglia su Libero, una firma nota per la cronaca con la capacità di raccontare notizie nere, e questo sembra arsenico e vecchi merletti. All'ospizio ci si uccide fra vecchiette, giallo in una struttura di assistenza a Como, e pensate, la sospettata è una compagna di camera. Per il delitto della 91enne accusata la moglie di un altro degente era esasperata dai lamenti della vittima. Ma questa è nerissima, questo è un orrore. Allora, il grande business del nuovo tipo di furto. Sapete che cos'è? Il furto di pigne! Io veramente pensavo fosse uno scherzo. Nuove frontiere, Il Tempo, Angelo Di Pietro, pagina 12. Ladri scatenati, fermata una banda specializzata nel viterbese, pinoli da rivendere a peso d'oro, e non solo, perché la pianta adesso ha trovato una nuova utilità, la pigna. La pigna viene usata nell'industria cosmetica per produrre profumi. Ladri di pigne, pensa dove siamo arrivati. Una chicca sulla Verità, il bed and breakfast a luci rosse. Vabbè, voi dite, ce n'è tanti di bed and breakfast, ci sarà quello a luci rosse? No, perché questo, Gustavo Bialetti sulla Verità, è gestito da un giudice. Giovedì la Procura Salentina ha chiesto il processo per Giuseppe Caracciolo e per la sua compagna Pasqua Biondi, si chiama proprio così, accusandoli di aver messo su un fiorente giro di prostituzione in un appartamento adibito a bed and breakfast. Vai, bello, dai, diamo l'indirizzo! A Cremona è arrivata una minaccia per l'occupazione o un grande progresso, decidete voi, ne discuteremo con Oscar, però è arrivato il postino robot, La Verità, pagina 23, pensate, consegna pacchi fino a 70 kg. E allora ci fermiamo qui, è stata una giornata appassionante, ma adesso è venuto il momento dei cani e dei gatti, le vostre telefonate all'800 24 00 24 sui temi che vi hanno vinto, i vostri messaggi al 349 238 6666, siete nelle strade, siete nel traffico, siete qui con noi, GR Strade, e torniamo. Dai, ulula Oscar, ma non voglio ulula.